Investire informati. Eh sì, è proprio questo il tema, anche come si potevano informare meglio queste persone che hanno investito spesso su suggerimento molto spinto dei direttori delle filiali di queste banche su questi strumenti di investimento, obbligazioni subordinate. Chi di noi può dire di conoscere con esattezza che cosa si cela dietro a una denominazione di questo tipo? Intanto il ministro dell'economia Padoan ha promesso una misura destinata agli obbligazionisti di queste quattro banche in fase di salvataggio, ha parlato di una misura umanitaria. Italia, chissà cosa intende, in attesa che chissà come e con che risorse questo intervento prenda forma, noi oggi cerchiamo di capire al momento quali strade potrebbero essere teoricamente immediatamente percorribili per tutelarsi. 800 24 00 24, naturalmente potete intervenire in diretta. Ieri, Nicoletta, tu non c'eri, io ho lanciato sul finire della trasmissione la puntata di oggi. E abbiamo già ricevuto alcune mail, forse le hai viste anche tu, anche se eri a Roma. Ci ha scritto un ascoltatore della provincia di Macerata, che non vuole essere citato ma che fa parte dell'associazione azionisti privati Banca Marche, e chiede di dare voce anche agli azionisti, dal momento si lamenta del fatto appunto che si parla solo degli obbligazionisti come vittime uniche di questa situazione. Ma Paolo, non è evidentemente così. L'azione generalmente più associata, identificata con un capitale di maggior rischio, l'obbligazione è vista come uno strumento di investimento più prudente, ma abbiamo capito che in realtà sono praticamente sullo stesso piano. Allora vi presento velocemente gli ospiti con cui chiacchiereremo questa mattina. Ringrazio e saluto l'avvocato Domenico Gaudiello, partner dello studio legale DLA Piper, specializzato in contenzioso finanziario. Avvocato, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Interpellato ieri dalle Sole 24 Ore, proprio dal collega Vitaliano D'Angerio, il pezzo ve lo ricordo, bond subordinati, le mosse dei risparmiatori. L'avvocato Gaudiello ha cercato un po' di capire quelle che teoricamente al momento potrebbero essere le strade che gli obbligazionisti, tra virgolette, truffati, gabbati, potrebbero percorrere. Sentiremo come si stanno muovendo le associazioni dei consumatori. L'avvocato Paolo Fiorio con noi, del Movimento Difesa del Cittadino. Avvocato, buongiorno, ben ritrovato anche a lei. Buongiorno a lei, a tutti. Io sono per il Movimento Consumatori, non per il Movimento Difesa del Cittadino. Ah, guardi, ho scritto io sulla scaletta, poi la conosco benissimo. Quante volte è venuto da noi, avvocato? Ho fatto io una sciocchezza, mi scusi, ha ragione. Cominciamo però con una testimonianza di un consulente finanziario di Porto San Giorgio, provincia di Fermo, che in questi giorni sta raccogliendo la disperazione di decine di persone che potenzialmente, se non si troverà qualche soluzione, appunto hanno perso tutto. Perso tutto. Esatto. Ringrazio Paolo Cardenà, private banker, fondatore del blog Vincitori e Vinti. Dottor Cardenà, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Una vedetta sulla situazione marchigiana, naturalmente la possiamo un po' definire così. Questa mattina ci racconta qualche situazione nello specifico con la quale sta venendo a contatto in questi giorni, e soprattutto lei come si sta interfacciando con queste persone, che tipo di risposte, consulenza, suggerimenti sta dando? Beh, innanzitutto vorrei inquadrare un attimino il quadro in cui questo scenario si è manifestato. Innanzitutto la regione Marche è una delle regioni più colpite dalla crisi, sta battendo in maniera severa anche le sanzioni imposte dalla Russia, e poi è arrivata la sciagura di Banca Marche che, come diceva lei in anticipo, se vogliamo, ha fatto una mattanza di forse qualche decina di migliaia di risparmiatori. Ecco, io sto raccogliendo molte istanze da parte dei risparmiatori che hanno visto andare in fumo i risparmi, e sono storie tristi e sono storie di appunto di decine di migliaia di risparmiatori che hanno perso gran parte o talvolta tutto il proprio patrimonio in obbligazioni oppure in azioni. Però c'è un punto che io vorrei sì, in qualche modo sollevare, sollevare, che è questo, cioè il contesto in cui si è manifestata questa sciagura, se vogliamo. Andrebbe capito che Banca Marche è una banca del territorio, fortemente radicata nel territorio della regione Marche. È una banca che impiega, diciamo, persone che si incontrano al bar, al supermercato, in chiesa, dove vogliamo. Quindi è una banca che fonde il rapporto banca cliente proprio su un rapporto fiduciario di estrema fiducia. Quindi i risparmiatori talvolta, forse sicuramente con troppa leggerezza, oppure con, se vogliamo, si fidavano completamente dei funzionari a quali affidavano il loro denaro, quindi la morale della favola è questa. Sì, la morale della favola è questa, e sono comportamenti che vanno oltre le logiche, o meglio gli schemi contabili, oppure le logiche di diritto sul quale si fonda l'intermediazione finanziaria. Ma quello che è successo anche al pensionato di Civitavecchia, che ha perso 100.000 euro, e sulla scia di questa situazione naturalmente ha deciso, per l'atto estremo, di togliersi la vita. La cosa più grave di questa situazione, della quale riportano i giornali di questa mattina, è che lui da giugno tentava di disinvestire da questi prodotti, per cui questa è una situazione sulla quale bisognerà fare molto seriamente luce, a prescindere da quello in cui si trovano tutti gli altri. Detto questo, Cardenà, adesso, siccome so che a lei si stanno rivolgendo molto persone, proprio anche quasi un po' la vedono forse come un consulente avvocato, no? Che cosa sta suggerendo di fare a chi invece un po' a mente fredda tenta di capire se ha dei margini per recuperare qualcosa? Lei, alla luce anche di quello che sta leggendo sui giornali, c'è qualche cosa che potranno fare, oppure da tutto per perso, insomma, li rassicura e basta, raccoglie queste lacrime? Ecco, che cosa sta dicendo nel concreto? Guardi, le dico subito, innanzitutto di mettere al riparo i risparmi superstiti, che è cosa fondamentale, e poi quello che sto suggerendo è chiaro che, insomma, l'eventuale recupero deve passare per forza per un'azione legale, fermo restando che, come dire, la manifestazione di volontà che si è appunto espressa all'atto della sottoscrizione di obbligazioni oppure di azioni è viziata da informative sui bilanci, diciamo, fasulli oppure artefatti. C'è anche l'inchiesta della Procura della Repubblica di Ancona che sta indagando a questo proposito. A mio avviso andrebbe anche indagata l'aspetto personale dell'investitore, certo. Nel senso che c'è il discorso di tutta l'adeguatezza dell'investimento rispetto ai rischi evidentemente compatibili con il profilo dell'investitore. È chiaro che se un investitore storicamente ha sottoscritto sempre titoli di Stato, BOT, e quindi prodotti di un certo grado di sicurezza, perlomeno fino a un certo punto, è chiaro che se di colpo investe in obbligazioni subordinate o azioni o concentra gran parte del suo patrimonio in questi strumenti, cioè qualcosa che non funziona. Cardenà, guardi, sì, evidentemente io purtroppo devo non voglio salutarla brutalmente, ho altri due ospiti, ma volevo continuare a farle fare il consulente per rispondere, se lei vuole, Nicoletta, possiamo lanciare l'ascoltatrice che si è messa in linea con noi, la vedi? Sì, Luisa, buongiorno, dalla provincia di Udine, benvenuta. Grazie, buongiorno. Sì, velocemente, Luisa, perché allora, sì, il tempo corre qua. Sì. Io detengo delle obbligazioni. Sì. Che sono ordinarie. Sì. È un'obbligazione bancaria, è un'obbligazione della banca presso la quale lei ha sottoscritto questo investimento, esatto. O un'obbligazione di un'altra azienda? No, proprio della banca. Mm. Non è un'obbligazione subordinata, però io ugualmente. Si è spaventata. Paura. E infatti, perché adesso il tema che si crea, qua Nicoletta, potremmo fare anche la puntata sulle fobie, no? Che sì, ma inevitabilmente guarda, possono scatenare. Ci starebbe perfettamente. Proprio. Vero? Sì, me la servi su un piatto d'argento. Luisa, allora velocemente le faccio dare un suggerimento da Paolo Cardenà. Per chi viene da lei, Cardenà, con il dubbio di aver sottoscritto un investimento simile a quelli che adesso sono andati in fumo a causa delle vicende che stiamo raccontando, facciamo una piccola consulenza. Come andare a cercare tra i prospetti informativi le informazioni corrette che ci servono, naturalmente, per capire che il nostro è un investimento fatto in condizioni di sicurezza o meno? Guardi, io suggerisco alla signora innanzitutto di rivolgersi a un consulente preparato, perché i prospetti informativi sono molto articolati, esistono nel mondo delle obbligazioni moltissime obbligazioni il cui rischio varia in relazione a molti aspetti. Quello che posso dire è che nel caso di Banca Marche, Banca Azzurra, insomma le quattro oggetto del salvataggio, non sono state colpite le obbligazioni ordinarie, ma ciò non toglie che con le nuove regole del bail-in di gennaio, sì, in vigore dal prossimo gennaio potrebbero essere colpite anche le obbligazioni ordinarie. Anche le obbligazioni ordinarie. Aggiungo una piccola cosa: oltre che indagare il prospetto informativo e capire bene l'obbligazione e tutti i profili di rischio connessi all'obbligazione, andrebbe anche indagata la solidità della banca. E questo è un argomento abbastanza complesso che oggettivamente non tutti hanno gli strumenti informativi per poter indagare bilanci, strategie bancarie. Esatto, perché qua ovviamente questo è un altro dei tanti temi che spesso definiamo divisivi, perché ovviamente si prendono delle posizioni opposte. In molti, anche fra coloro che ci scrivono stamattina, stanno sostenendo: ma insomma, hanno fatto degli investimenti a rischio, perché dobbiamo pagare tutti per degli investimenti un po' aggressivi che tutte queste persone hanno fatto? Io quello che dico è che certo, magari qualcuno ci avrà anche provato vedendo i rendimenti di questi prodotti. Qualcuno viaggiava intorno al 6-6,5%, poco al di sotto di quanto rendeva il bond argentino di qualche anno fa. Detto questo, di fronte ad un prospetto informativo complicatissimo, sfido chiunque a mettersi a capire quello di cui stiamo parlando. Seconda cosa, io conosco molto bene la realtà marchigiana perché sono di lì, so anche che tipologia di risparmiatore c'è: l'aggressivo, il trasgressivo della finanza, lo speculatore non esiste. Esiste tanta gente che fa l'artigiano di mestiere, fa l'operaio, che mette da parte faticosamente i soldi e che vuole mettere quel denaro in condizioni di totale sicurezza. L'obbligazione ha sempre avuto queste caratteristiche, per cui facciamo anche molta attenzione, insomma, su questo, su tutto questo, sul dare anche dei giudizi sulle modalità con cui uno ha investito o meno. Detto questo, chiedo a Nicoletta adesso di aiutarmi a traslarmi verso la seconda parte. Cosa abbiamo adesso? Le borse, che toccano adesso sempre a me. Tocca sempre a te parlare, raccontarci. Noi pendiamo dalle tue labbra, ci traghettiamo dopo i mercati, vediamo se ci danno delle buone. E poi andiamo velocemente ai nostri due avvocati di stamattina, Gaudiello e Fiori, a cui chiedo ancora un minutino di pazienza. Cuore e denari. Salvami, salvati, salvaci, salviamoci. Salvami, salvati, salvaci, salviamoci. E allora eccoci di nuovo insieme sul tema più caldo del momento, il decreto salva banche. Le migliaia di azionisti, piccoli obbligazionisti che sono le vittime incolpevoli di questi quattro salvataggi, di queste quattro banche italiane, sono nate, come sapete, con questo provvedimento preso in una notte dal governo, anzi in una domenica pomeriggio. Sono nate la nuova Banca Marche, la nuova Cassa di Ferrara, la nuova Banca dell'Etruria, la nuova Cari Chieti. Tutto il vecchio è rimasto naturalmente lì, lasciando mi viene da dire con un brutto termine, braghe di tela, purtroppo, ecco, vero Nicoletta, molti piccoli risparmiatori. Però si stanno studiando delle iniziative per permettere loro almeno di recuperare qualcosa. Ovviamente molti non si accontentano, perché poi anche nelle misure che sta ipotizzando il ministro Padoan si parla di un provvedimento di carattere umanitario che possa permettere di rimettere in tasca a queste persone tra il 20 e il 30% di quello che hanno perso. Ma insomma, stiamo navigando su ciò che non sappiamo in questo momento, ragionando su quello di cui non sappiamo, per cui lo vedremo nei prossimi giorni. Intanto, avvocato Domenico Gaudiello, studio legale DLA Piper. Lei è specializzato in contenzioso finanziario. Per il Sole 24 Ore è stato interpellato proprio ieri e ha detto che gli investitori traditi possono al momento ipotizzare di seguire tre strade possibili. Ce le elenca? Sì, allora buongiorno a tutti. Io sostanzialmente mi ricollegherei anche a quello che ho ascoltato poco fa. Le strade che avevo ipotizzato sono basate su due temi fondamentali. Il primo: come si è arrivati da parte dell'investitore ad acquistare i titoli, diciamo, che oggi sono diventati praticamente a valore zero. L'altro tema di riferimento è sostanzialmente chi ha causato il deprezzamento del titolo fino al punto da renderlo senza valore. In pratica, cosa può fare oggi un obbligazionista portatore di obbligazioni subordinate, per intenderci, o un azionista che si trova sostanzialmente un titolo che non vale niente? Intanto se la può prendere con gli amministratori, diciamo, della banca, cioè i soggetti che hanno inevitabilmente comportato una perdita di valore totale, diciamo, dell'investimento effettuato al tempo. E questo è un punto fermo, cioè vale per tutti, indipendentemente dalla tipologia di investitore e dal livello di comprensione del rischio connesso all'investimento fatto. Poi c'è un altro tema che viene un pochino prima, e cioè come si è arrivati, posso immaginare soprattutto per chi ha le obbligazioni subordinate, a comprare obbligazioni subordinate. Le obbligazioni subordinate sono obbligazioni che fondamentalmente hanno caratteristiche più simili alle azioni che a un'obbligazione in senso stretto. È vero che portano un diritto di credito nei confronti, diciamo, di chi le emette, però è un diritto di credito che per l'appunto è subordinato a una serie di altri creditori che possono venire prima. Io ho motivo di pensare che al momento in cui si è fatto questo investimento, la comprensione adeguata, diciamo, della tipologia di investimento effettuato non è stata completa. E qui mi ricollego a quello che diceva il consulente Cardenà. Sicuramente per gli investitori va verificato al tempo della stipula delle obbligazioni che tipo di valutazioni di adeguatezza sono state fatte e soprattutto che tipo di comprensione c'è stata dell'investimento effettuato. Quindi arriviamo al livello, diciamo, dei collocatori, perché è vero che queste obbligazioni spesso vengono collocate direttamente dalle banche, questo, diciamo, ma anche da network terzi, da altri, certo, intermediari. Quindi sicuramente il rapporto che si stabilisce tra l'investitore e chi colloca è determinante per capire che livello di responsabilità è riconducibile a chi le ha collocate. Poi c'è un altro tema sullo sfondo che pure adombravo ieri nell'articolo, sì. E cioè c'è il tema della costituzionalità di questo provvedimento. Allora, noi sappiamo tutti che il bail-in entra in vigore il 1 gennaio dell'anno prossimo. Bene, prima di questa disciplina, che è abbastanza importante perché cambia un po' l'approccio al salvataggio delle banche, la disciplina vigente era un'altra. Oggi chi si trova in mano azioni e titoli subordinati di queste quattro banche si trova in effetti a dover fronteggiare una normativa assolutamente inattesa che, insomma, li pone tutti gli investitori, diciamo, interessati in una situazione di diseguaglianza rispetto agli altri investitori, diciamo, di altri titoli bancari che non sono stati in qualche modo colpiti da medesime misure. Cioè, in altri termini, la sensazione è che ci possa essere anche un profilo di incostituzionalità. Come lo si fa a sollevare questo profilo? Perché, esatto, che rimane astratto. Se io, e questo è il terzo tema che ponevo ieri come strategia, se io faccio la causa nei confronti anche di quello che è l'ente ponte, cioè chiedo i soldi indietro all'ente ponte, per intenderci, che è la Good Bank, il fondo, ecco, di risoluzione, questa istituzione gestita da Nicastro, posso provare soltanto in, perché lì ci sono i soldi praticamente, c'è, cioè, il denaro, esatto, da cui poter attingere eventualmente per risarcire le vittime di questi, tra virgolette, non crack ma quasi crack. Di sicuro qualcuno mi risponderà: beh, ma non siamo titolati noi a rimborsarti perché la legge, certo, per l'appunto ci esonera. A questo punto io sollevo il conflitto, cioè il tema della costituzionalità, cioè è plausibile che ci sia una norma che in precedenza rispetto a quello che è l'ordinamento che deve venire in vigore l'anno prossimo già esoneri alcune situazioni dall'obbligo, diciamo così, di rimborsare come si fa sempre le obbligazioni emesse. In questo caso si apre un tema di costituzionalità e quindi il giudice eventualmente potrebbe a sua volta, diciamo, riportare la questione, certo, alla Corte. Però, insomma, sono tutti suggerimenti di carattere legale che lei ieri ha consentito al Sole 24 Ore di metterli nero su bianco, sperando che possano essere realmente, concretamente percorribili queste strade. E ovviamente vanno viste le carte di ciascun singolo investitore. Bravo, perché la storia, lì volevo, diciamo, arrivare. Avvocato Gaudiello, il caso del pensionato di Civitavecchia di stamattina, che a giugno, lo scrivono molti giornali, chiedeva insistentemente, dopo avergli, perché solo a giugno la banca si è accorta di fargli firmare tutta la documentazione in cui si esplicitamente indicava che quel prodotto, che quell'obbligazione su cui aveva messo quei 100.000 euro era un investimento, appunto, che non era adeguato al profilo di rischio, appunto, di questa persona. Lui da giugno chiedeva di disinvestire, la banca tergiversava e gli diceva di no, ed è arrivato a dicembre e è capitato questo patatrac. Lei su questo caso, dal punto di vista legale, come agirebbe? Che cosa farebbe? Ci sono anche in questo caso alcuni aspetti fondamentali. Innanzitutto, quando uno compra un titolo, insomma, un titolo obbligazionario o in generale un prodotto finanziario, sostanzialmente prima di comprarlo dovrebbe capire di cosa ha bisogno e perché poi si riferisce a quel prodotto. Quindi, è evidente che questa persona, erano tutti i soldi della sua liquidazione, di che cosa poteva aver bisogno? Di proteggere questo denaro, certo, per la sua, no, Nicoletta? Certo, di una tutela, di una protezione, cioè, di una garanzia. Anche. Mi pare che è evidente che il direttore di banca dovesse essere perfettamente consapevole. Non penso che sia andato lì dicendo: questa persona voglio fargli diventare 200.000 euro in tre giorni, quindi datemi qualcosa che renda e veramente. Questo pone due problemi. Un problema di consulenza, che c'è stata al momento della proprio indicazione delle possibilità offerte al mercato, è un problema di adeguatezza. La consulenza in generale è un'attività che c'è sempre quando si vende un prodotto finanziario, anche se poi io mi reco in banca a comprare il titolo, inevitabilmente quando vado in banca, specie se sono un pensionato, chiedo consigli su cosa fare. Questa attività di per sé è un'attività che è soggetta a regole di diligenza e di buona fede, come tale, insomma, deve svolgersi secondo alcuni principi anche procedurali, cioè prima di proporti quello che il mercato offre, devo capire tu quanto sei nelle condizioni situazione di valutare le cose che ti dirò. Se non faccio questo screening iniziale, mi metto in una situazione di responsabilità che poi ha un riflesso sulla vita successiva del prodotto. Per essere molto pratici, non è possibile che chi sottoscriva un titolo obbligazionario il giorno stesso in cui lo sottoscriva abbia anche firmato il questionario di adeguatezza, come si suol dire. Prima, diciamo, di avviarsi alla stipula di prodotti finanziari, bisognerebbe aver condotto una indagine approfondita. Esatto. E non, se c'è per essere pratici, se c'è coincidenza proprio delle date, certo, dalla data del questionario, la data di stipula del prodotto, io ci vedo un indice di anomalia. Esatto, diciamo, se non dolo. Avvocato Gaudiello, io starei ad ascoltarla per ore, però vorrei anche capire adesso le associazioni dei consumatori, che sono tutte sul piede di guerra su questa vicenda, che cosa stanno facendo. Ho fatto così stamattina spostare su diverse associazioni l'avvocato Fiorio, che risaluto di nuovo, Movimento Consumatori. Avvocato, che cosa stanno chiedendo ai vostri sportelli le persone che immagino si stiano rivolgendo, anche se lei è a Torino, magari forse sta un po' meno presidiando il tema rispetto a tante altre situazioni del passato, perché queste sono situazioni che invece stanno maturando in altre zone ben specifiche d'Italia. Ci dia un po' il suo punto di vista su questa vicenda. Anche perché, siccome molte persone non potranno rivolgersi a blasonati studi legali come quello dell'avvocato Gaudiello, ma andranno alle associazioni dei consumatori che faranno spendere un po' meno, ci dica un po' voi come li indirizzerete. Ma allora, noi, come dire, stiamo ricevendo delle informazioni da tutte le nostre sezioni territoriali che sono dislocate in Toscana, nel Lazio, nelle Marche, tra Ferrara e Rovigo, e il contesto che emerge è un contesto nel quale, rispetto a quanto, come dire, riferiva prima il collega Gaudiello, c'è un profilo in più che io vorrei sottolineare, cioè che la maggior parte di queste obbligazioni sono state negoziate direttamente da queste quattro banche. Qui bisogna ricordarsi che queste operazioni non sono solo delle operazioni potenzialmente non adeguate, ma sono delle operazioni in un palese gravissimo conflitto di interessi. Perché noi abbiamo una banca che vende dei subordinati e non delle obbligazioni ordinarie senior, perché ha la necessità di ricostituire il proprio patrimonio di vigilanza richiesto da Banca d'Italia. E che cosa fa? Per ottenere in fretta e a dei costi tutto sommato contenuti, perché non è vero che gli interessi fossero particolarmente elevati di queste obbligazioni. Sì, ce n'erano di vario tipo, qualcuno arrivava al 6,5. Rispetto a quelli che oggi sono i titoli di Stato, perché andiamo a vedere i momenti delle emissioni, non c'erano dei rendimenti che potessero far scattare dei campanelli d'allarme, a nostro avviso, molto forti. Allora, in questo caso le banche rifilano alla propria clientela ordinaria, che magari contrae un contratto per un mutuo o qualcos'altro, queste obbligazioni. E questa è un'operazione, come dire, in conflitto di interesse, in cui viene violato il primo principio fondamentale dell'intermediazione finanziaria, che è il principio che consente la fiducia, cioè ovvero che l'intermediario deve agire nell'interesse del cliente. Quando l'intermediario vende delle obbligazioni subordinate per un proprio interesse, viola questa regola e deve risarcire il danno. E tanto più quando, come dire, queste obbligazioni sono delle obbligazioni che non sono quotate, quindi sono dei titoli liquidi che non possono essere venduti, e quando non viene fornita alcuna informazione. Noi riteniamo, come dire, che questi siano dei profili di carattere generale che riguardano sostanzialmente il 90% dei piccoli investitori. E quindi noi abbiamo inviato quattro lettere alle quattro nuove banche, chiedendo alle quattro nuove banche di aprire le banche ponte, di aprire delle procedure di conciliazione, perché noi riteniamo che sono le nuove banche a rispondere dei danni arrecati agli investitori, perché un conto, come dire, è l'azzeramento, sul quale poi mi piacerebbe anche dire due cose, dei titoli e quindi del prestito obbligazionario. Altro conto sono le responsabilità che sono insorte in capo alla banca per la prestazione dei servizi di investimento. Per non parlare poi delle responsabilità anche, esatto, della vigilanza. Cuore e denari. Eccoci tornati ad Investire Informati, continuiamo a parlare delle conseguenze del decreto salvabanche, come sempre con un occhio particolare ai piccoli risparmiatori ed investitori che si sono visti nel giro di un pomeriggio, una domenica pomeriggio, completamente azzerati i loro risparmi. Azionisti ed obbligazionisti, tutti più o meno sullo stesso piano, naturalmente gli azionisti ritengono di essere un po' meno tenuti in considerazione in questi giorni e di vedersi davanti ai loro occhi privilegiati la situazione degli obbligazionisti di queste banche. Per noi avete tutti la stessa dignità, cerchiamo di capire che cosa potete fare. Detto questo, Allora, siccome il tema è molto importante, abbiamo solo 7 minuti, noi per oggi vi rimandiamo al nostro sito su Radio 24 per ascoltare il proseguimento della favola di Andrea Vitali con la colonna sonora dei Sulutumana, per cui se volete partecipare all'estensione della nostra favola di Natale, il contributo di oggi lo potete sentire sul nostro sito, lo metteremo anche su Facebook e sui nostri social network, in modo tale che non perdete questa opportunità che so che vi sta piacendo molto, per cui è tutto lì. Domani riprendiamo il nostro percorso. Detto questo, concludiamo, abbiamo ancora pochi minuti, il tema di oggi delicatissimo, sul quale se vorrete faremo ancora tante puntate perché è una situazione che va strettamente monitorata. Volevo far concludere all'avvocato Fiorio del Movimento dei Consumatori sul concetto appunto che ci anticipava poco fa, il tema dell'azzeramento del valore di questi investimenti. No, peraltro, se vuole dirci anche la sua proprio sul tema azioni, avvocato Fiorio, perché appunto questo ascoltatore Paolo ci ha scritto una mail lunghissima e lui dice: io non sono d'accordo sul fatto che sia stato completamente azzerato il valore residuo dei nostri titoli in qualità di azionisti. Ci dica come la pensa. Ma i titoli sono, ci sono dei provvedimenti in base ai quali i titoli, le posizioni degli azionisti rimangono nella vecchia banca, che è una banca, come dire, che è in liquidazione coatta amministrativa, cioè quindi sostanzialmente una banca insolvente. Non ritengo che ci sia alcuna possibilità di recuperare, come dire, ad oggi, sulla base della situazione attuale ad oggi, delle somme per gli azionisti. Però gli azionisti non sono in posizione così diversa rispetto agli obbligazionisti. È vero che quando si compra un'azione si sa che è un titolo di rischio e non di debito. Esatto, però loro dicono era una banca non quotata. Questo ascoltatore mi scrive, proprio allo sportello gli veniva raccomandato questo investimento proprio perché gli è stato detto: guarda, non essendo quotata in borsa, non può essere oggetta a tutte quelle speculazioni finanziarie che tradizionalmente in borsa si fanno, per cui è molto più sicuro per te questo investimento. Gliela dico proprio chiara. Questi titoli liquidi sono stati venduti con rassicurazioni di questo tipo. Ma anche gli azionisti, noi stiamo seguendo altri casi non molto lontani, come quelli di Veneto Banca e di Popolare Vicenza, anche gli azionisti hanno subito anche in queste situazioni delle violazioni palesi, perché il conflitto di interessi a cui facevo riferimento prima riguarda anche gli azionisti, così come se può essere ammissibile che un azionista acquisti 2-3 mila euro di azioni di una banca di titoli non quotati. Un acquisto per importi superiori a nostro avviso è palesemente inadeguato perché è un titolo non liquido, quindi o si è un investitore specializzato in quel tipo di investimenti oppure è un'operazione che non deve essere proposta dalla banca, e noi sappiamo che tutte queste operazioni sono state tutte proposte agli sportelli, sono state spinte. Tra l'altro noi stiamo parlando di piccoli investitori, perché noi a Cuore Denari abbiamo a cuore soprattutto queste situazioni, ma se aprissimo lo spaccato sulle imprese che sono state più o meno, non dico costrette, ma indirizzate ad investire su questi prodotti in cambio di l'erogazione di finanziamenti, di credito, di mutui e prestiti, ecco lì apriremo, ma è un tema del quale si sta occupando lungamente Plus 24 del Sole 24 Ore, per cui nelle prossime settimane invito i nostri ascoltatori anche a leggere le pagine del nostro inserto del sabato dedicato al risparmio. Visto che si tratta di banche molto radicate in alcuni territori ben precisi della nostra penisola, noi continuiamo anche a collegarci con queste regioni. Siamo stati nelle Marche, prima con Francesco Cardenà, adesso andiamo ad Arezzo e ci colleghiamo con Francesco Macri, presidente di Arezzo Domani. Macri, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, oggi voi alle 17 avete organizzato un'assemblea di risparmiatori, lei proprio li ha definiti senza mezzi termini, derubati dal decreto salvabanche. Chi siete? Che cosa farete in questo incontro? Chi avete invitato, Macri? È un'associazione che ha promosso questo incontro, hanno aderito tutti i gruppi consigliari del Comune di Arezzo, ad eccezione del PD che si trova in evidente imbarazzo. Ci saranno migliaia di risparmiatori, considerate che sono 24.000 gli aretini coinvolti, con una media di 35.000 euro a persona. Più o meno tutte le famiglie dell'aretino sono coinvolte. È la nostra banca da più di 150 anni e sono stati traditi dal sistema. Come diceva parliamo lei, di Banca Etruria, ecco, naturalmente, sì, in questo caso. Sì. Come diceva lei, moltissimi sono stati anche costretti a investire in questo senso per un rapporto fiduciario, ma anche per un rapporto di tipo finanziario, dal nonno che chiedeva il mutuo per la nipote e metteva a garanzia le obbligazioni richieste, all'impresa che oggi non si ritrova più quelle obbligazioni o quelle azioni a garanzia e dovrà magari fare affidamento su firme personali o su ipoteche, quindi è a rischio anche la tenuta di moltissime imprese aretine del nostro indotto Orafo, che garantisce 12.000 occupati in questa città. Quindi la situazione è gravissima e riteniamo che i principali responsabili, oltre alle cattive gestioni degli anni precedenti, siano anche i funzionari di Banca d'Italia, la Banca d'Italia che non si capisce più a cosa serva, se è un'istituzione pubblica o forse un luogo dove si fanno gli interessi delle altre banche, perché Banca Etruria era di fatto controllata da Banca d'Italia ormai da tantissimo tempo, e mentre verificavano le 192 posizioni di conflitto di interesse, soldi regati a Fiumi, ai consiglieri di amministrazioni, agli amici degli amici, poi puntualmente non restituiti, ancora si insisteva ricapitalizzando e chiedendo ancora soldi da investire in obbligazioni e azioni. È vero. Quindi è uno scandalo inaudito che deve essere risarcito, certo, totalmente. Macri, il governo è l'altro responsabile. Grazie per la sua testimonianza. Ci risentiremo certamente nelle prossime settimane per vedere la vostra battaglia, come va avanti e che tipo di iniziative complessivamente insieme a voi anche sul territorio, altri comitati che probabilmente sorgeranno spontaneamente, appunto, potranno intraprendere. Ma sarà, immaginiamo, una battaglia davvero dura. Sarà forse uno dei temi principali dei quali parleremo per tutto il 2016. Allora, io purtroppo non riesco a sentire Anna Rita da Roma, che si lamentava del fatto che c'è tutta la questione della firma, della profilazione, quindi MIFID, profilo di rischio, documenti che ci fanno firmare dei quali non capiamo niente. Anna Rita, un bel tema questo, ne riparleremo. E anche Saverio da Palermo, che voleva raccontarci che ha avuto prodotti Banca Marche, è stata un'esperienza negativa e positiva insieme. Saverio, insomma, probabilmente lei non è fra queste persone sfortunate che hanno perso al momento teoricamente tutto. Noi speriamo che la vicenda non si sia chiusa qui, evidentemente, ma ne riparleremo. Ringrazio gli avvocati Gaudiello e Fiorio per essere stati con noi. Noi ci torneremo sicuramente la prossima settimana ancora. Intanto buona giornata, domani.